Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Scontri a Torino, blocchi in Veneto, Liguria paralizzata. La protesta cosiddetta dei forconi è andata avanti per tutta la giornata di ieri e oggi si replica, promettono gli organizzatori. In piazza, più che autotrasportatori e coltivatori, sono scesi cittadini esasperati e ultra armati di bombe carta, bottiglie, sassi e petardi. Ci hanno accompagnato alla fame, hanno distrutto un paese, urlavano i manifestanti contro la politica. Nel capoluogo piemontese il bilancio più pesante, 14 agenti feriti, un fotografo dell'ANSA malmenato e derubato, un manifestante fermato. Bloccate le vie del centro, Torino è rimasta per ore prigioniera di una massa indistinta di disoccupati, studenti, pensionati, facinorosi. Da ieri, le vetrine di in rete, ma anche nelle chiacchiere generali, non si ascolta che una parola, forconi. Oggi se ne sono accorti anche i giornali e contemporaneamente a questa euforia carina del nuovo segretario del PD e della sua squadra d'assalto, gli italiani cominciano a riflettere su un fenomeno molto singolare, io direi piuttosto nuovo per il nostro paese, nel suo essere indifferenziato, non preciso, non riferibile a qualche istanza ben precisa se non quella del malcontento generale. I forconi, ma è un movimento che nasce in Sicilia, non se ne sentì parlare per molto tempo, poi improvvisamente girano tra le brave massaie italiane. Ieri mi hanno chiamato tre o quattro amiche, notizie del genere: andate al supermercato, fate la spesa, comprate generi alimentari di prima necessità perché ci saranno i forconi che bloccheranno tutti i rifornimenti e non ci sarà da mangiare. Allo stesso tempo, oggi vedo quello che è reso conto esatto, ho davanti una cartina riassuntiva presa dal giornale, ci sono state 29 manifestazioni in vari punti d'Italia ieri, tutta l'Italia è stata presa, da Orbassano, Asti, Torino, passando per Macerata, Teramo, per Roma, Bari, Campello, Delicata, Agrigento, Cosenza, Messina, Milazzo, quindi in tutta Italia c'è stato qualcosa di simile. Poi un altro elemento di confusione, mai chiarito, non interessa chiarirlo in questa fase, mi interessa solo capire e sapere la vostra percezione di quello che sta accadendo, l'immagine di poliziotti e carabinieri senza caschi che si abbracciano con i manifestanti. Vera, reale, smentita, poi riconfermata, è una maniera di allentare la tensione di piazza. Quando i poliziotti tolgono i caschi vuol dire che cessano l'ostilità da parte loro. Sì, questa è stata la prima lettura ufficiale, poi ho letto comunicati sindacali del SIULP che dice no, i poliziotti hanno tolto i caschi proprio per far vedere che loro stavano con una parte dei manifestanti, con la parte buona dei manifestanti. Qual è la parte buona dei manifestanti? Da una parte abbiamo visto che sembra un grande carrozzone quello della protesta generale del sono stanco, sono incazzato, non voglio più andare avanti, che addirittura riappaiono a impugnare il senso della protesta le frange più dimenticate dell'estrema destra. Stefano Delle Chiaie intervistato da Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano, un residuo lontanissimo dell'estrema destra degli anni 60 e 70. Cosa avete capito voi di tutto questo? Qual è la vostra percezione? Avete paura dei forconi? Chi sono i forconi? Vi sentite anche voi un forcone? Un possibile forcone, visto che è così diluita e così imprecisa l'appartenenza a questo movimento? Basta essere incazzati con qualcuno, basta dire basta, basta dire è ora di cambiarla, è ora di finirla, non ce la facciamo più con lo strapotere, la politica è lontana, abbiamo bisogno di riacquistare il nostro diritto di cittadinanza e di appartenenza a uno Stato, e basta questo. Questo per essere forcone. 800240024. Siete anche voi dei forconi? È mezzogiorno quando qui in Piazza Castello la protesta sfocia in un vero e proprio assalto al Palazzo della Regione. Le forze dell'ordine respingono i manifestanti con alcune cariche di alleggerimento e cercano di disperdere la folla. Edoardo Novelli, buongiorno. Buongiorno. Edoardo Novelli insegna comunicazione politica presso l'Università Roma 3, l'abbiamo chiamato più volte, nel comitato editoriale della rivista Comunicazione Politica, ha scritto vari libri, tra cui La Turbo Politica, 60 anni di comunicazione politica e di scena pubblica in Italia e tanti altri. Novelli, dal suo punto di vista, qual è l'originalità dei forconi e quali sono i punti comuni con tutto quello che è accaduto negli ultimi decenni, se non nell'ultimo secolo, nella scena politica? L'originalità è di essere, come in parte avete già detto voi nell'inizio, di emergere senza una chiara identità, senza una leadership precisa, senza una matrice, insomma emerge questo movimento che si è mosso sott'acqua, impercettibile agli osservatori, ai media, alla comunicazione, agli analisti, e improvvisamente riemerge con una capacità, devo dire, di imporsi all'attenzione notevole. Ma guarda, c'è un sincronismo spaventoso, sembra quasi una forconata nelle chiappe di Renzi proprio il giorno del suo trionfo. Sì, ma comunque il sincronismo c'era per farsi vedere loro in tutti questi, cioè c'è comunque un'organizzazione, non si sa bene chi siano, e soprattutto quello che emerge, ma questo è difficile capire chi c'è bene dietro, è che sono estremamente compositi, cioè appunto si va dall'estrema destra, si va, la stampa metteva in luce il fatto che vi erano uniti ultras del Torino e ultras della Juventus, ma questo fa abbastanza ridere perché si sa che le curve sono abbastanza popolate, animate. Quando c'è la tirar sassate sono poi, tutti insomma, d'accordo. C'è una politicizzazione, le curve che sono comunque controllate almeno in parte dalla destra, e però poi vi sono appunto dei lavoratori, vi sono delle categorie professionali, gli autotrasportatori, i contadini, c'è il simbolo del forcone, insomma quello che richiama così da un puro punto di vista impressionistico richiama veramente una sorta di Jacquerie dei secoli scorsi, no? E anche il nome del forcone, il simbolo è preciso. È un oggetto arcaico, nessuno usa più un forcone in campagna, esatto, da almeno a 3-4 decenni, penso. Rivolte contadine che ogni tanto avvenivano ed erano poi di solito abbastanza brutali, abbastanza poco articolate, insomma, mandando sui siti loro, insomma, è impressionante vedere il tipo di analisi, insomma, c'è un concetto noi e gli altri sono un'indistinta spectre dove ci sono i politici, dove ci sono i boiardi di Stato, dove ci sono i burocrati. Però c'è un'altra circostanza additiva, se mi permette Novelli. Sì, certo. Nasce con una simbologia del tutto arcaica, il forcone, sembra veramente le proteste contadine ottocentesche, allo stesso tempo il riverbero in rete, naturalmente anche Grillo ci è saltato subito addosso, ma è un movimento molto di rete, le parole di passo, gli ordini di scuderia, le frasi forti sono passate attraverso Twitter e Facebook. Sicuramente, quello è uno strumento con il quale ormai bisogna assolutamente fare i conti, è chiaro che oltretutto negli altri che loro criticano c'è l'informazione, c'è la stampa ufficiale, come in parte fa anche Grillo, quindi vi sono grandissime analogie. Questo volantino era su WhatsApp, sulla messaggeria gratuita che sostituisce gli SMS, roba da ragazzini uno direbbe, ma lì girava il volantino. Proprio nel momento in cui i mass media non ti danno attenzione e hai l'idea di appunto un mondo di nemici, di avversari, eccetera, è il modo migliore, un'auto-organizzazione, quello che una volta era il ciclo stile, adesso è diventata la rete con delle potenzialità enormi. No? Allora, fermo un attimo Novelli, volevo mettere sul piatto un'altra riflessione, intanto chi vuole può dare la sua idea, stanno arrivando molti SMS, dice casino per casino, dicono molti, una protesta senza proposta, però l'idea forte del forcone è circolata. Il forcone è ben inflitto nell'emotività del nostro paese, quindi vogliamo capire esattamente la vostra percezione. Vi fa male il forcone? Vi rende orgogliosi? Però sulla genealogia di questo movimento c'è qualcosa più da dire. Il leader dei forconi, questa mattina è stato ospite Giovanni Minoli, è Mariano Ferro, che viene da Avola. Avola non è un nome casuale di città, che alla mia età ricorda che nel 68 i fatti di Avola, l'anno dopo i fatti di Battipaglia, avevano un senso molto profondo, ci fecero anche delle canzoni. Pino Aprile, buongiorno. Buongiorno. Pino Aprile, giornalista, saggista, autore del libro Il Sud Puzza, storie di vergogna ed orgoglio, edizioni PM, nostro ospite spesso, è un analista della rivolta del Sud o della riscossa del Sud. Quanto c'è di Sud, di meridionalismo in questi forconi che nascono in Sicilia ma ormai, diciamo, si sono manifestati a Torino, nelle città del Nord, come se fosse un movimento generale? È questa la rivolta del Sud di cui parlavi? Assolutamente no, non riesco a capirla questa, come dire, nella sua composizione, persino nelle sue motivazioni, questa protesta odierna dei forconi. Perché? Perché io i forconi li vidi nascere a Filaga, in Sicilia, sui Monti Sicani, dove ci fu una assemblea di coltivatori, agricoltori, allevatori che dicevano alla politica: guardate che ormai noi siamo alla distruzione totale per colpa della politica. Perché? Perché ma chi erano i forconi che hai visto nascere? Come nasce? Diciamo la scaturigine prima. Persone per bene, orgogliosissime e disperate. Si arrivava a quell'incontro dopo una serie di... Che anno era, Pino? Ti parlo del 2010. C'erano dei rappresentanti politici e uno di loro, per esempio, dopo che erano state esposte queste cose, quali lo Stato chiede agli agricoltori e allevatori giustamente tutta una serie di garanzie nella produzione, la pulizia, la sanità. Però è un movimento nasceva, diciamo, su una realtà e su degli interessi molto locali, non aveva l'idea di movimento nazionale. Nasceva siciliano perché lì si è avuta l'espressione maggiore. In 3 anni su 200.000 aziende agricole e di allevamento, dico anche miste, 50.000 erano passati di mano per debiti, erano state molte messe all'asta per cartelle non pagate di Equitalia. Quindi eccetera. Ci fu un'anticipazione di quello che oggi viene considerato un fenomeno nazionale. Ma io gli dedicai un intero capitolo in Giù al Sud e mi trattarono quasi come un tipo un po' bizzarro che parlava di questa gente, chi diavolo era. Guarda caso oggi ti chiamo come analista di quello che è l'origine del movimento Forconi. Cesare, velocemente, Cesare. Salve. Nei punti nevralgici qui a Torino, uno è dove sono io, a Ronduzzo la Forca, va tutto bene. Due cose molto rapidamente. Perché cosa sta accadendo in questo momento? Stanno semplicemente bloccando il traffico e manifestando ovviamente il loro dissenso nei confronti di uno Stato che non esiste più. Quanta gente c'è? Parecchia. In questo punto che è un punto fondamentale, perché in Corso Regina Margherita, che è la via principale che rompe la città, una delle vie principali che rompe la città in due. Ma perché dove impiccavano la gente? Si chiama la Rotonda della Forca? Sì, proprio così, si chiama così. Nel luogo del patibolo siete? Esatto, è la vecchia via delle Gaglie, diciamo così, quella che veniva utilizzata anche dai romani per crocifiggere le persone, quindi è rimasta questa... E avete scelto, tu sei un Forcone, Cesare? Io sono un simpatizzante al momento non è fuori legge, quindi si può dire. Ieri eri presente quando è accaduto la levata dei caschi dei poliziotti, atto epico? Assolutamente. Cosa è successo? Anzi, no, fermo un attimo, Cesare, lo dici fra un minuto, va al traffico e poi prendi fiato e me lo racconti. Tantissima gente ci chiama, ci contatta, si autocontattano per organizzarsi. Andremo avanti ad oltranza, con fermezza, con determinazione, rispettando la legge, in nome della nostra Costituzione, senza assolutamente bandierine politiche di chi che sia, e soprattutto non vogliamo violenza. Io personalmente, ma come tanti milioni di cittadini, andremo nelle nostre piazze. Questo è Danilo Calvani, un imprenditore agricolo del Pontino, che è uno dei leader del movimento. Mi arrivano SMS da tutta Italia, Imperia, Treviso, Torino ancora, mi danno segnalazione del fatto che i Forconi continuano a esserci, continuano a muoversi. Ci siamo interrotti velocemente con Cesare, che conclude, si trova alla Rotonda della Forca a Torino e sta assistendo al seguito della manifestazione di ieri. Mi racconti esattamente cosa è accaduto ieri, visto che eri testimone? Allora, c'era un sacco di gente, ovviamente, attorno ai poliziotti. I poliziotti si sono tolti il casco, non perché non era terminata la manifestazione, come invece la questura vuol farci credere. Cioè non c'è stato un ordine, diciamo, di togliersi? Assolutamente no. Hanno manifestato e anzi hanno solidarizzato con noi, perché non c'era alcun tipo di violenza. Quindi quello che ha detto la questura è falso. Vabbè, ho detto questa mattina il comunicato del SIULP, dice esattamente quello che dice l'ascoltatore Cesare. Si sono tolti il casco perché c'era una parte dei manifestanti che non erano violenti, non facevano nulla di contrario alla legge, che trovavano giuste le loro istanze, siccome anche loro sono lavoratori, e sono tolti i caschi. Edoardo Novelli, si ricorda quando c'erano i militari democratici, quelli che sotto giravano con il fazzoletto in faccia, qualcosa di simile? Era una cosa strana vedere uomini in divisa manifestare col fazzoletto sulla faccia. Ma sì, il gesto di ieri è sicuramente uno dei gesti più forti, e a livello anche di immagine, quello che rimarrà di questi giorni, quello che colpisce di più. Le truppe in tenuta antisommossa che si levano, appunto, che si disarmano quasi e che solidarizzano. Diciamolo chiaro, sembrano, adesso non voglio sembrare i prodromi di una rivoluzione, quando i militari solidarizzano con la piazza, manca il governo. Sono cose che siamo abituati a vedere certe volte negli ex paesi dell'Unione Sovietica, che sia successo ultimamente, queste cose da noi sicuramente era da molto. È un'immagine molto succedeva. Forte, non va sottovalutata. È una delle immagini più forti. Due cose solo, poi devo scappare, vi devo lasciare, però due cose. Uno è che di questa l'impreparazione di fronte a questo fenomeno anche dei media mi sembra totale. Cioè ieri tutti i telegiornali aprivano con pagine dedicate a Renzi, alla nuova squadra, alle primarie del PD, le reazioni dell'altra politica. Sono le fantafregole del giornalismo, che devo dire. Beh, il giornalismo un po' mio perché guarda solo nei palazzi, questa è una cosa assolutamente incredibile, insomma. L'altra cosa è che comunque anche l'informazione, non diciamo quella dei telegiornali, ma forse anche le stesse forze dell'ordine, le questure, sono state totalmente sorprese. A Torino mi dicono che sono da settimane che si stanno facendo volantinaggi, che stanno andando nei negozi a invitarli in maniera più o meno calda a chiudere, a fare la serrata. E l'altro elemento, quindi bisognava coglierlo questo aspetto, d'altronde è mesi che si va avanti sostenendo che c'è una situazione di esasperazione, di crisi, di tensione del paese, e molti programmi televisivi non fanno altro che giustamente, per quello sarà di cronaca, però di rappresentarla. Noi accendiamo la televisione tutte le sere, vediamo fasce sociali alla disperazione che protestano, che inveiscono contro la classe politica, contro i politici, e gli stessi politici rappresentati all'interno di questi talk show sempre più in maniera critica, sempre più pensiamo cosa sono alcuni, appunto, la gabbia. Ce ne vuol dire, Presidente Novelli, sembriamo le damigelle della corte del re di Francia, che mi stupisce che guardano arrivare il popolo con i forconi e dicono: ma diamogli le brioche se non c'hanno il pane. Qualcosa che non fosse successo prima per certi versi, perché comunque che vi fosse una rappresentazione vera o addirittura forse esasperata di un paese sull'orlo del collasso, comunque lo si sta dicendo da mesi. Grazie Novelli, la lascio ai suoi impegni. Massimiliano, velocemente, poi chiudo con Pino Aprile. Massimiliano. Buongiorno Nicoletti, io sono qui in un presidio all'ingresso di Torino nella zona di Venaria, dove c'è lo Shan e c'è lo stadio della Juventus che ha il suo centro commerciale vicino delle alla Reggia. Bravissimo, un po' più spostato, all'ingresso di Torino Nord. E che accade? Niente, qua praticamente da stamattina presidiando gli ingressi di Auchan e delle Leclerc, che in questo momento hanno proprio fatto la serrata al supermercato. La strada, via principale, via Garibaldi, è chiusa. C'è un fondo di realtà nel volantino che girava su Auchan. Certo. Fate la spesa. Io sono un ambulante, padre di 4 figli, e sono una persona di quelle che sta aderendo a questa cosa. Quindi è vero che i media non hanno colto nel pieno quella che era la preparazione, ci sarà veramente una serrata nei supermercati? Hanno voluto nasconderla, ma questo perché comunque ormai abbiamo puntato i piedi, qualcosa deve cambiare, non ce la facciamo più. E quindi cosa farete? Poi alla fine cosa farete? Niente, nel pacifico di tutta la situazione bisogna arrivare a qualcosa, non ne possiamo più, le spese sono troppe, adesso tutti questi aumenti, non si sa cosa fare. Grazie Massimiliano. Pino Aprile, a te la conclusione. Ti ho dato il quadro un po' anche con testimonianza diretta, che qualcosa sta accadendo, non possiamo far finta che è un gioco. No, ma quello che mi stupisce non è che accada, è che accada solo ora. La cosa stupefacente di questo paese è l'estrema pazienza di chi subisce. Quando verranno ricordati questi anni, ha detto bene Novelli, l'immagine sarà quella dei poliziotti che si sono tolti il casco. Nessuno ha rilevato che questa immagine è un'immagine arcaica, ancestrale. Si chiama, precede, il gesto di Ettore. Sì. Perché? Perché quando Andromaca porta Sianate a salutare Ettore, che sta andando ad affrontare Achille, il bambino scoppia a piangere terrorizzato. E lui lo prende. Ettore, perché vede il padre con l'elmo, cioè nella sua funzione sociale. Allora Ettore capisce, si toglie l'elmo e il bambino riconosce il padre, smette di piangere e va in braccio. Si riconoscono della stessa famiglia, questo è successo. La dirigenza di questo paese, che ha fatto l'Italia il paese più ingiusto dell'Occidente, con la più grande distanza fra vecchi per garantiti e giovani proletarizzati, fra paghe minime e paghe massime, in Italia sono nell'ordine di 500 volte, in Francia, negli altri paesi un po' più seri, nell'ordine di decine di volte. Bene, tutto questo non è stato rilevato dalla stampa, dalla politica. Cioè Pino, a me viene un'altra immagine, un'immagine di quelle scorte con le sirene spiegate che girano per le strade di Roma, che sembra che sia la garanzia più impassibile, più potente del potere costituito. Io oggi comincerei a pensare anche le persone si sentono protette da quelle scorte. A questo sì è sicuro, ma non protette da reazioni violente. No, no, ma da reazioni di vergogna. Esattamente questo che dico. No, la violenza mi sembra che sia molto lontana al momento, fortunatamente, da tutto questo tipo di protesta. Però sono immagini forti, simboliche. Tu hai citato un'immagine epica che fa venire i brividi, è vero. Ettore toglie l'elmo per far capire a Stianatte che è suo padre, che non è un nemico. E l'elmo era il suo elemento di rappresentanza della guerra che andava a fare, che andava a della combattere. Della funzione sociale, cioè di quello che divide le persone, dando ad alcuni, come dire, devono operare nella loro funzione e l'altro è il popolo che come dire, assiste. Togliere l'elmo e dire stiamo dalla stessa parte. Grazie Pino Aprile, grazie Pino Aprile, grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, il tempo è finito. A domani.